E allora 15:21, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Cominciamo così un po' un giro di interventi dal concentramento per questo corteo che partirà da Piazzale Tiburtino fra pochissimo, insomma fra qualche il tempo insomma di far radunare compagni e compagni, e dovremmo avere in collegamento un compagno del coordinamento di lotta per la casa. Ci senti? Buongiorno a tutti e a tutte. Ok, niente, dai, facci un po' così un preambolo di questa giornata, raccontando insomma le varie motivazioni per cui si scende in piazza oggi. Certo, allora intanto vabbè, siamo qua a Piazzale Tiburtino che inizia un po' a riempirsi di gente. Abbiamo visto arrivare una delegazione dalla Val di Susa, di compagni dei comitati, e appunto piano piano la piazza si sta riempiendo. Quindi sì, aspetteremo ancora qualche decina di minuti, verso le 4 probabilmente ci muoveremo definitivamente. E appunto il corteo è un corteo che parla innanzitutto di solidarietà a chi è arrestato sotto processo per i vari procedimenti contro il movimento NoTav e per il 15 ottobre 2011, che insomma procedimenti che adesso nelle prossime settimane e mesi andranno a sentenza. Abbiamo visto a dicembre la sentenza che ha assolto Chiara Claudio Mattia Niccolò dell'accusa di terrorismo, ma allo stesso tempo li ha condannati a 3 anni e 7 mesi, quindi sicuramente condanne gravi comunque. E adesso il 27 gennaio ci sarà la sentenza per il maxi processo per gli scontri del 27 giugno e 3 luglio 2011, insomma uno dei momenti più alti di resistenza popolare negli ultimi anni in questo paese. E quindi parte del corteo parte da questa base di solidarietà incondizionata, per poi però affrontare una serie di temi, quindi quello delle grandi opere e delle devastazioni che queste comportano, sia a livello di devastazione ambientale, sia a livello di devastazione delle risorse pubbliche, in cui insomma pensiamo che tutti questi soldi che vanno a ingrassare mafie e affaristi vari potrebbero insomma servire a tanto altro. E quindi lo ribadiamo come movimenti, sia di lotta per la casa, sia come insomma movimenti sociali in generale. E qui poi nella città di Roma insomma questo corteo assume anche dei significati ulteriori, perché siamo in una città dove appunto la guerra contro i poveri sta avanzando a passo di carica, dove ricominciano gli sfratti, dove non si danno soluzioni a nessun tipo di problematica sociale, e quindi insomma andiamo a ribadire il fatto, a riportare in piazza anche tutte le nostre lotte, che diciamo scagliandosi contro il sistema delle grandi opere vanno a dire una serie di altre cose, insomma. E è un corteo che va verso i quartieri popolari, verso Villa Gordiani, proprio per comunicare insomma con un corteo popolare, anche un po' sul modello di quelli della Val di Susa, che quindi oggi non andrà ad assediare o a contestare particolari palazzi del potere, ma al contrario andrà a comunicare con interlocutori, insomma un interlocutore sociale a noi più vicino, che sono i quartieri che appunto questi disagi li vivono ogni giorno. E quindi appunto lo scopo del corteo è un po' questo, quello di fare tanta comunicazione e di ribadire tutta questa serie di cose che stavo un po' elencando. Quindi niente, appunto oltretutto Roma, insomma l'inchiesta Mafia Capitale ha portato alla luce quello che è il sistema normale, insomma non è un'eccezione quello che è stato smascherato in qualche modo, ma è la regola di questo modello di sviluppo, di cui il TAV in Val di Susa è un esempio chiarissimo, l'intreccio tra interessi capitalistici in generale, di cui in parte anche mafiosi, e la collusione di istituzioni completamente schiave di queste logiche. E quindi la lotta no TAV ci dà un grande esempio, ovvero quello di prendere in mano in prima persona queste tematiche, organizzarsi, lottare e non aspettare certo che in qualche modo la magistratura a fare giustizia, perché insomma sappiamo benissimo come il primo impegno di magistratura e polizia sia sempre reprimere il dissenso sociale e il conflitto sociale, e non certo insomma andare a colpire i meccanismi di accumulazione capitalista più o meno legale che ci sono. Quindi la soluzione per far fronte a tutto questo malaffare è organizzarsi e lottare, come la Val di Susa ci insegna, insomma. Benissimo, senti, mi dicevi tu insomma si partirà più o meno fra una mezz'oretta circa, intorno alle 4, sì, ci dici un po' il percorso che dovrebbe fare il corteo, così magari allora, compagni e compagni che sono all'ascolto si possono agganciare, certo, magari di qua e di là. Il corteo adesso partirà da Piazza del Tiburtino, entrerà dentro San Lorenzo per via degli Equi e via dei Campani, per sbucare su scalo San Lorenzo e passaggio alla Porta Maggiore, poi un bel pezzo lungo insomma di via Prenestina, un corteo non breve insomma, e tutta via Prenestina fino all'altezza del parco di Villa Gordiani, dove gireremo a sinistra per via Dignano Rispe, inoltrandoci appunto nella borgata Gordiani, e poi girare su viale della Venezia Giulia e arrivare all'incrocio con viale della Serenissima. Questo è il percorso. Perfetto, benissimo. Vabbè, quindi ribadiamo l'appuntamento, ancora insomma c'è tempo per unirsi al concentramento a Piazzale Tiburtino. Per adesso ti ringraziamo e magari ci si risente. Grazie poi durante l'arco del pomeriggio. Certamente, certamente. Ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, dopo.